Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, a tutti buona giornata. Ritorniamo a parlare di un tema molto caro ai nostri ascoltatori, i mutui. Se dovessimo fare una classifica dei temi più gettonati e più seguiti dai nostri ascoltatori, sicuramente tutto ciò che attiene alla casa è uno degli argomenti preferiti, ma soprattutto le preoccupazioni nella questione mutui, appunto, negli ultimi anni è stata quella che sicuramente abbiamo cercato anche di cavalcare di più per seguire i nostri ascoltatori, per affrontare i loro problemi, soprattutto quando questi hanno riguardato l'impossibilità di rimborsare le rate. Allora, quali sono le novità? La prima è che il 30 gennaio è stato rinnovato l'accordo fra l'Associazione Bancaria Italiana e 13 Associazioni dei Consumatori per la cosiddetta moratoria dei mutui, quel provvedimento cioè che permette di sospendere il pagamento delle rate per 12 mesi. Ne abbiamo parlato appunto tante volte qui a Salva Danaio. Non cambiano le modalità e i requisiti per poter accedere a questa opportunità, si tratta però solo di una mini proroga della scadenza. Le domande potranno essere presentate ancora, se ci si ritrovasse nella condizione di non poter più rispettare questo impegno finanziario, fino al prossimo 31 marzo, mentre gli eventi in base ai quali può essere chiesta la sospensione, ad esempio perdita del lavoro, decesso o malattia di un familiare, devono verificarsi entro il 28 febbraio. Noi oggi a Salva Danaio torniamo appunto a spiegare il funzionamento della moratoria, come vi dicevo, chiedendoci se allo scadere di questa quinta proroga, che per la verità appunto come avete visto è anche differente in riferimento al tempo rispetto alle altre moratorie appunto varate negli ultimi 2 anni, perché qua la proroga che abbiamo è di appena 2 mesi, mentre nelle altre circostanze si viaggiava di 6 mesi in 6 mesi. E allora, terminata questa quinta proroga, i cittadini in difficoltà potranno fare affidamento su nuove iniziative? Pare di sì, perché c'è un'altra novità. La scrive anche oggi il Sole 24 Ore. C'era fino a ieri in sospeso la riattivazione del fondo di solidarietà per i mutui per la prima casa. Un'iniziativa che per un periodo di tempo, lo ricorderete, si è affiancata alla moratoria sui mutui. Ebbene, la situazione si è sbloccata proprio ieri, perché la Commissione Bilancio del Senato ha dato parere positivo allo schema di regolamento che dovrebbe far funzionare di nuovo l'agevolazione che pure, anche se a condizioni diverse rispetto alla moratoria, permette la sospensione delle rate alle famiglie in difficoltà. 800 24 00 24, il numero verde che come sempre vi permette appunto di intervenire in diretta. Raccontateci i vostri casi, cercheremo di capire se potete chiedere al vostro direttore di banca di sospendervi il mutuo per 12 mesi perché avete i requisiti per poterlo fare, o in alternativa quali altre soluzioni si possono adottare. Con noi Maria Stella Anastasi, l'avvocato Anastasi, segretario della Lega Consumatori, consulente legale per il comparto bancario e finanziario di questa Associazione dei Consumatori. Avvocato, buongiorno e bentornata. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Ci collegheremo tra poco anche con Federica Rossi Gasparrini, presidente nazionale di Feder Casaling, che è stata la promotrice di questo fondo di solidarietà, e quindi ci racconterà le novità di ieri sera e che cosa anche cambierà adesso, perché l'idea è di fare in modo che moratoria e fondo di solidarietà diventino un unico provvedimento e quindi un unico contenitore al quale attingere qualora appunto le famiglie non potessero più pagare i mutui. Quindi non due iniziative parallele, ma un unico provvedimento, un unico contenitore, dicevo. Però insomma è anche una questione un po' complicata da affrontare, perché i due provvedimenti, pur andando ad aiutare le famiglie che non riescono a pagare il mutuo, in realtà permettono loro di accedere con parametri diversi, per cui bisogna anche capire come questa omogeneizzazione dovrebbe avvenire. Dovrebbe anche raggiungerci Vito Lops, collega del Sole 24 Ore, che è un po' in ritardo, ma in ogni caso lo sentiremo tra poco. Vi ho dato il numero verde per intervenire, come sapete ci potete anche scrivere al 349-238-6666 e l'indirizzo salvadanaio@radio24.it, su Facebook salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Adesso la borsa. Borsa negativa oggi in tutta Europa, con l'unica eccezione di Londra che è in rialzo dello 0,35%, Parigi perde mezzo punto, Francoforte perde lo 0,23%, la Spagna e Milano perdono un po' di più, Milano meno 0,7%, tornano a scendere tutti i titoli del settore bancario, ancora una volta, che ieri avevano recuperato, di nuovo un comparto sull'otto volante, perché appunto è tornata l'attenzione generale della comunità finanziaria internazionale, la questione italiana con le incertezze politiche, ma anche la questione spagnola. Intesa perde il 2,34, meno 2 per Ubibanca, meno 2 per Unicredit, meno 2 per Mediobanca, sono in calo di oltre un punto e mezzo anche Snam, Rete Gas e Tenaris, e Generali perde l'1,35%. Oggi consiglio di amministrazione cruciale per Banca Monte dei Paschi, che dovrebbe definire in via ufficiale quante sono le perdite in bilancio del gruppo, quelle ascrivibili anche alla sottoscrizione di prodotti derivati dei quali abbiamo parlato tante volte, Alexandria, Santorini, Nota Italia, l'operazione Chianti, Classico, insomma ce ne sono tante e speriamo che non ne trovino più. Comunque oggi Monte dei Paschi fermo a Piazza Affari, il titolo anzi adesso in leggero calo, meno 0,31%. I migliori, Azimut più 3, Popolare di Milano più 2,58, Finmeccanica più 2, Buzzi Unicem più 1,93%. Boom oggi per la borsa di Tokyo, che ha guadagnato quasi 4 punti grazie al calo dello yen che continua da molto tempo nei confronti delle altre divise internazionali. L'euro sul dollaro invece è a 1,35,35. Direi che la borsa la possiamo lasciare subito, andare al tema di oggi e parliamo di nuovo delle famiglie che hanno bisogno di sospendere il mutuo. Si sperava nella quinta proroga e alla fine è arrivata. Viene posticipata infatti ancora di 2 mesi la scadenza per presentare domanda per la sospensione delle rate del mutuo, in base all'accordo sull'ormai famosa moratoria sottoscritto dall'ABI e da 13 associazioni dei consumatori. Perdita del lavoro, cassa integrazione, spese mediche impreviste da sostenere, decesso di un familiare. È a queste complicate realtà che si rivolge il piano famiglie, che permette di sospendere il pagamento fino a 12 mesi. Il bilancio dell'operazione, partita il 31 marzo 2010, parla chiaro sul permanere di queste necessità. Alla fine di dicembre erano stati sospesi circa 85.000 mutui, per 9,8 miliardi di euro. Si tratta di una media annua per famiglia di oltre 7.000 euro. Di questi, 3.000 si sono aggiunti soltanto nei mesi di novembre e dicembre 2012. Questo però sembra essere davvero l'ultimo rinnovo dell'iniziativa e stavolta si tratta in effetti di una mini proroga. Le domande potranno essere presentate ancora fino al prossimo 31 marzo, mentre gli eventi in base ai quali può essere chiesta l'opportunità della sospensione devono verificarsi entro il 28 febbraio 2013. Come afferma una nota dell'ABI, con la quinta proroga l'iniziativa sulla sospensione delle rate di mutuo si avvia alla sua conclusione. Il prolungamento dovrebbe essere sufficiente a completare il passaggio di testimone con un altro servizio analogo e di iniziativa parlamentare. Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, che per un periodo si è già affiancato alla moratoria, dovrebbe infatti riattivarsi a breve. E si riattiverà a breve sì, perché come vi dicevo appunto proprio ieri sera la Commissione Bilancio del Senato ha dato il suo parere positivo allo schema di regolamento che dovrebbe far funzionare di nuovo l'agevolazione. Federica Rossi Gasparrini, presidente di Feder Casalinghe, buongiorno, grazie per aver accolto buongiorno. Questa mattina il nostro invito, l'abbiamo chiamata appunto non appena abbiamo saputo della novità. E allora, dopo aver esaurito il finanziamento iniziale del primo fondo di solidarietà che ammontava 20 milioni di euro, adesso il fondo ottiene una nuova dote, altri 20 milioni di euro che potranno aiutare appunto molte altre famiglie che non ce la fanno a far fronte a questo pagamento ogni mese, non per colpa dei tassi, perché adesso sono abbastanza sostenibili, ma perché invece qua sono cambiate in maniera molto drastica negli ultimi 2-3 anni le condizioni del mercato del lavoro, per cui le famiglie che hanno perso all'interno del nucleo familiare un posto di lavoro, e sono molte naturalmente, chiaramente non riescono a rispettare l'impegno del pagamento del mutuo. Adesso che cosa aspettate, dottoressa Gasparrini? Credo che per i nuovi regolamenti attuativi da parte del Ministero del Tesoro ci sia poco più che da sbrigare una formalità, ritengo, no? Sì, perché è integrativo rispetto al vecchio regolamento e perché è intervenuta una normativa leggermente diversa e quindi il regolamento è stato cambiato. La preoccupazione era che, concludendosi il fondo ABI, la possibilità di utilizzare la moratoria ABI, non ci fosse più il fondo di solidarietà attivo. E dobbiamo dire grazie a senatori e parlamentari che, in piena campagna elettorale, a poco più di 20 giorni dal voto, però hanno accettato di riunirsi per dare il parere, che era indispensabile. Quindi prima il 29 la Camera di gennaio, ieri il Senato, e quindi a questo punto l'iter parlamentare è concluso. Il Ministro mi hanno assicurato che è pronto a firmare il nuovo schema di regolamento, quindi prima, assolutamente prima della scadenza del fondo di solidarietà ABI, partirà, riparte questo a 20 milioni di euro, come lei diceva, ma già ci stiamo muovendo per rendere stabile il finanziamento, 20 milioni di euro l'anno. In questo momento così difficile per le famiglie, difficilissimo, aver introdotto questo diritto per i cittadini rende l'associazione, tutte le famiglie che noi rappresentiamo, contente. Abbiamo fatto un'azione di novità, perché anche il fondo ABI è nato dall'iniziativa poi delle donne, delle famiglie che volevano un diritto di sospensione. E all'inizio, quando chiesi aiuto all'ABI, erano molto preoccupati, dicevano è difficile. Poi invece hanno studiato il prodotto, hanno aiutato il Parlamento a legiferare, e visto che era così lungo l'iter poi dell'attuazione del fondo, sono partite per fortuna l'ABI con le associazioni di consumatori. Quindi, per concretizzare un po' la questione, Presidente Rossi Gasparrini, quando terminerà la nuova proroga della moratoria dell'ABI, praticamente dovrebbe entrare a regime il fondo di solidarietà, che dovrebbe sostituire integralmente anche il provvedimento del sistema del piano famiglia, no? Oppure i due percorsi potrebbero uniformarsi in qualche maniera? Qual è l'idea di ciò che potrebbe succedere ad aprile? Penso che succeda che chi ha chiesto ex novo il fondo al tesoro avrà i 18 mesi se è dentro nei limiti di legge. Il fondo del tesoro è il fondo di solidarietà che porta praticamente il suo nome, chiamiamolo così. Esatto. Chi invece che ha ottenuto la moratoria? Ecco, l'ha ottenuta per 12 mesi. Sembra che il 25%, sono dati del tesoro e la Banca d'Italia, il 25% avrebbe difficoltà a ritornare a pagare, perché ha avuto la moratoria di 12 mesi. Quindi potrebbe fare una richiesta per ulteriore sei mesi, però al fondo di solidarietà mutui prima casa. Allora, c'è già qualche ascoltatore che ci chiede, chi non aveva mai sentito parlare di queste iniziative anche di sistema per alleggerire il peso e il carico del mutuo sulle famiglie in difficoltà, ci chiedono in molti, in pratica il pagamento viene spostato, c'è qualcuno che paga al posto nostro. Allora, i due provvedimenti funzionano in maniera diversa. Qui posso far entrare posso subito far intervenire l'avvocato Anastasi. Perché? Per chi aderisce alla moratoria, avvocato, praticamente l'interesse rimane in carico al mutuatario, che pagherà praticamente la quota che sospende, la ritornerà a pagare non appena riprende il piano di ammortamento regolare. Per il fondo di solidarietà, se non mi ricordo male, invece praticamente la sospensione dell'interesse poi è a carico della banca, che si rivale sul fondo di solidarietà. Esatto. Esattamente, sì, sono leggermente con qualche caratteristica un pochino diversa, appunto, le due iniziative, anche proprio nella metodologia della ripresa poi del pagamento e anche dello spostamento degli interessi e, come diceva lei, anche appunto il carico degli interessi a chi viene attribuito. Però, diciamo, perlomeno così concettualmente il fondo di solidarietà sarebbe un po' più vantaggioso, un pochino più interessante, perché, da sei mesi di finestra perché in più. È proprio un aiuto anche economico, gli interessi non devi più pagarli, però. E non solo, ma anche prevede proprio un tetto diverso, perché mentre la moratoria ABI associazioni limitava a 150.000 euro il valore del mutuo, il fondo lo amplia a 250.000 e quindi questo fa sì che più famiglie possano rientrare, perché molte famiglie erano rimaste fuori perché l'importo del mutuo, che non dovesse superare i 150.000 euro, aveva un pochino bloccato qualcuno che magari aveva anche solo di 170-180.000 euro. Certo. Diventava poi molto discrezionale da parte della banca accordare ugualmente al cliente una sospensione. Poi in alcuni casi è anche stato fatto, insomma si è cercato di andare incontro, anche perché le associazioni hanno cercato di spingere proprio le singole banche, perché se il cliente ha perso il posto di lavoro e non lo ha ritrovato, la difficoltà persiste, perché come diceva la dottoressa Gasparrini, nei 12 mesi spesso i 12 mesi non sono stati sufficienti a ritrovare un lavoro. Senta, la come dire, razionalità di questa mini proroga fino al 31 marzo qual è stata, visto che lei ha trattato direttamente con l'ABI, lo ricordiamo, perché dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare, mentre Federica Rossi Gasparrini è stata la promotrice del fondo di solidarietà. Sicuramente la moratoria dell'ABI è sua e di Fabio Picciolini e poche delle le associazioni. Però so che voi avete negoziato con più forza al tavolo con l'ABI. Diciamo che cosa succede a fine marzo? A fine marzo, in qualche modo, la finestra l'abbiamo, come dire, e si è resa necessaria per consentire che nel frattempo potesse entrare in vigore, in attuazione definitiva, il fondo. Quindi c'era il limite, perché al 31 gennaio scadeva la precedente proroga. Non era ancora entrato in vigore di fatto il fondo, perché mancavano questi regolamenti attuativi, e di conseguenza c'erano in questo mese peraltro la tornata elettorale, quindi il rischio poteva essere, come diceva la dottoressa Gasparrini, fortunatamente appunto le Camere hanno lavorato ugualmente, si sono impegnate su questo fronte, ma il rischio che qualcuno si trovasse proprio senza, come lo chiamiamo noi, paracadute, salvagente, come lo vogliamo. Ecco, ma come la moratoria potrà trasferirsi al fondo di solidarietà? Quella decade, la moratoria dei mutui fissata dal piano famiglia dell'ABI, decade completamente, diventa solo ed esclusivamente fondo di solidarietà, perché anche quello ha un plafond, quindi a un certo punto quelle risorse questo finiranno. Questo sarà una cosa che andrà vista in questa fase, non appena appunto saranno pronti questi regolamenti eccetera attuativi, di valutare insieme appunto ad ABI questi elementi più strettamente formali, ecco, proprio per non lasciare l'utente, il cliente in queste fasi, diciamo così, di limbo, dove appunto non sanno dove andare ad attingere per chiedere queste sospensioni, e comunque anche proprio gli aspetti più strettamente burocratici. È stato anche la moratoria molto sveltita, la modulistica è stata semplificata proprio il più possibile, però certo il rischio che qualcuno non riesca ad accedere per motivi burocratici c'è sempre. Non solo per motivi burocratici, c'è tutto l'ambito dei lavoratori autonomi, che anche questo è stato un tema oggetto di una grande sua battaglia, in molti ci stanno scrivendo, e purtroppo queste figure professionali non possono essere accontentate, non lavorano, non hanno fatturato, lavoro fermo, ci scrivono un ascoltatore, posso accedere all'agevolazione? No. Ecco, e questa è una grande discriminazione. Questo è stato il grande limite, ecco, che soltanto il lavoratore dipendente, che perché sappiamo che poi molti lavoratori autonomi sono formalmente autonomi. Infatti. Classiche partite IVA. Guarda, io devo dare già in pausa, ma c'era Riccardo dalla provincia di Padova che direi di sentire a questo punto, perché è proprio attinente al tema che stavamo affrontando. Riccardo, buongiorno. Senta, avete già parzialmente risposto alla domanda, perché chiedevo appunto se la sospensione poteva essere valida anche per i lavoratori autonomi o liberi professionisti. Purtroppo per le partite IVA no, Riccardo. Allora, visto che è un tema al quale tenete molto, ci ritorniamo fra qualche istante. Vito Lops, ciao. Ciao. Benvenuto, ci sentiamo tra qualche istante. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, mutui, le famiglie che non ce la fanno a pagarlo possono utilizzare due opportunità: o il piano famiglia dell'ABI, la moratoria dei mutui, che è stata di nuovo prorogata a fine gennaio fino a fine marzo, si può fare richiesta al proprio direttore di banca di appunto sospendere per 12 mesi il pagamento del mutuo, ma naturalmente bisogna avere certi requisiti. Ieri sera al Senato è stato sbloccato il secondo fondo di solidarietà, chiamiamolo così, perché praticamente è stato sbloccato il secondo pacchetto di aiuti alle famiglie in difficoltà che si attiva attraverso questo fondo. Le caratteristiche per poter accedere a questa sorta di finanziamento, di sospensione, chiamiamolo così, sono diverse rispetto alla moratoria, ma in ogni caso da aprile potrebbe diventare un'unica iniziativa. Con noi questa mattina l'avvocato della Lega Consumatori, Maria Stella Anastasi, Vito Lopes del Sole 24 Ore, che non ho ancora fatto parlare. Devo però salutare, quindi gli faccio fare un ultimo richiamo, Federica Rossi Gasparrini, presidente di Federcasalinghe, che è stata la grande promotrice di questo fondo di solidarietà. Un messaggio naturalmente al nuovo Parlamento che si insedia a fine febbraio, dottoressa Rossi Gasparrini, per fare in modo che questi 20 milioni di euro disponibili nel fondo di solidarietà possano crescere un po', perché non bastano. Esatto, e che siano ogni anno rifinanziato, e sappiamo di dover lavorare ancora per quanto riguarda il settore autonomo, il settore partite IVA, e quindi ci risentiamo col nuovo Parlamento. Molto bene. Da cui ci faremo sentire, però vorrei fare un ringraziamento a Sole 24 Ore, l'alleanza fra un giornale di prestigio e chi combatte, in questo caso per questo mutuo, compreso poi l'ABI, è stata vincente. Certe volte il paese non si rende conto che se combatte riesce anche a vincere. E infatti, grazie dottoressa Gasparrini. Buongiorno. Devo dirsi che Maximilian Cellino, Vito Lopes hanno fatto un grande lavoro e seguono in maniera costante, costantissima, questo argomento. Allora Vito Lopes, facciamo un po' la differenza un po' più dettagliata tra la moratoria ABI e il fondo di solidarietà. Fondo di solidarietà nella nuova formulazione, perché comunque è anche un po' diverso rispetto al primo fondo, quello che è andato esaurito già da molti mesi. Prima poteva aderire, poteva chiedere di avere la sospensione del mutuo con la famiglia che non può più pagarlo, che ricadesse in determinate appunto caratteristiche. Le riepiloghiamo, così almeno sentiamo se le famiglie che sono in onda e vogliono chiedere questo intervento ci rientrano o meno. Sì, la novità riguarda diciamo il percepimento di quelle che sono state diciamo le novità poi introdotte anche dalla riforma del lavoro Fornero. E quindi il regolamento iniziale è stato aggiornato e quindi diciamo il fondo è diventato ancora più esclusivo, nel senso per quanto riguarda l'accesso, e quindi sia chi ha sostenuto delle spese per ristrutturare l'immobile che per quanto riguarda spese relative a spese mediche, in quel caso oggi diciamo non rientra più. Quindi tutte queste domande, che spesso erano anche abbastanza confusionarie, comunque hanno diciamo ingolfato la parte burocratica di questo fondo, oggi non possono essere più inviate. La grande differenza rispetto al piano ABI riguarda, come già abbiamo detto prima, il discorso degli interessi. Quindi il fondo è finanziariamente molto più conveniente, perché in effetti gli interessi se sono ne carica a carico lo Stato, cioè del fondo, della Consap. Della Consap, limitatamente a un plafond che però al momento è abbastanza basso per coprire le esigenze degli italiani. E diciamo poi il discorso importante è anche il fatto del reddito. Per quanto riguarda il piano ABI, l'accessibilità era legata a un reddito imponibile di 40.000 euro, mentre per quanto riguarda il nuovo fondo si parla dell'indicatore ISEE, che quindi è un indicatore economico sia del reddito ma anche del patrimonio del nucleo familiare, è di 30.000 euro, quindi un po' più basso, e quindi è più difficile tecnicamente accedere a questo fondo, anche se le condizioni sono davvero migliori. Certo. Oh, c'è anche da dire, avvocato Anastasi, adesso sentiremo anche un paio di ascoltatori, che se si è in difficoltà non è detto che si debba per forza accedere alla moratoria piuttosto che al fondo di solidarietà. Qualche volta noi diamo anche un'indicazione di altro genere agli ascoltatori. Comunque cominciamo a fare una bella chiacchierata franca con il direttore di banca e magari si trova anche una soluzione interna, individuale, che non ricada all'interno di questi due provvedimenti di sistema, diciamo. Certo, ma infatti noi abbiamo sempre detto anche di chiamare, di sentire le associazioni, perché comunque attraverso noi è possibile avere l'informazione magari anche su iniziative che singoli gruppi bancari hanno messo in campo, anche appunto parzialmente diversi da questo, ai quali l'utente può accedere. Una cosa importante volevo integrare: per accedere alla sospensione il ritardo nei pagamenti non deve essere superiore a 90 giorni, perché inizialmente la prima moratoria era più ampia, anche per 180 giorni di ritardo, adesso si è ridotta e sappiamo, però ugualmente se anche c'è qualche ritardo che non supera i 90 giorni tanto comunque se siamo in ritardo lo sappiamo subito, quindi inutile perdere tempo, è meglio no, ma qualcuno sappiamo che si è fatto lo scrupolo perché dice ma io sono in ritardo, non posso accedere. Ecco, che sia ben chiaro, chiedere comunque in ogni caso, come diceva lei, informazioni al direttore, informazioni nelle associazioni, anche per la compilazione dei moduli siamo disponibili noi, sono disponibili le agenzie, per qualsiasi richiesta è importante, esatto, l'informazione, quindi le associazioni, i loro sportelli sono tutte disponibili ad assistere, certo. Ecco, le famiglie, e a sostenere le famiglie, certo, quante vengono a trovarvi nei vostri sportelli ancora, avvocata tante, Anastasi? Tante. Solo tante. Per i mutui o per che cos'altro? So che il Monte dei Paschi in questi giorni è un tema molto gettonato, sì, anche hanno timore. Gettonato, sì, esatto, molte volte è solo un timore, speriamo che resti solo un timore, sì. Ma molte richieste riguardano anche altre vicende, come dire, di titoli, di fusioni, la preoccupazione per qualche investitore, lato proprio famiglie, lato difficoltà avere, no, non che le altre non lo siano, ma è legato al pagamento delle utenze, perché il mutuo è l'utenza, quindi molte richieste di dilazione di pagamenti per quanto riguarda le utenze, luce, gas in modo particolare. Tra l'altro la ringrazio per questo suggerimento, sì, perché è un tema che noi non affrontiamo mai e non diamo mai delle indicazioni concrete agli ascoltatori per poter chiedere anche alla propria azienda del gas, della luce, certo, come poter dilazione, magari perché le bollette sono non spese altissime. Beh, a volte dipende, quando soprattutto il gas è anche come riscaldamento, quindi soprattutto le utenze con cosiddetti conguagli cominciano a diventare pesanti, certo, anche perché sono somme grosse magari in un'unica fattura. Anche in questo senso le associazioni stanno lavorando proprio con uno sportello dedicato alle problematiche energetiche e quindi a tutto quello che è il settore dell'energia con l'autorità, in questo senso, quindi anche per questo settore le associazioni sono a disposizione. Benissimo. Degli utenti. Marco Lombardo, segniamo questo argomento da affrontare al più presto. Almiro dalla provincia di Sondrio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Innanzitutto volevo unirmi alla dottoressa Gasperini nel ringraziarvi per il servizio che fornite. Grazie, Almiro. C'è solo che abbiamo perso una grande competenza come Oscar Giannino, ma tant'è. Ma non è persa, e d'altronde lui ha fatto una scelta diversa, che cosa dobbiamo fare? Gli abbiamo dato tempo di fare la sua campagna elettorale, e gli auguriamo tutto il bene del mondo, perché le posso assicurare che a prescindere da tutte le polemiche che si sentono fuori, noi a lui siamo molto affezionati, gli vogliamo proprio anche umanamente, almeno io personalmente, molto bene, per cui speriamo di recuperarlo, chi lo sa. Significa che non viene eletto, ecco, ci dica tutto. Volevo chiedere, innanzitutto, come bisogna fare se eventualmente si riscontrassero delle resistenze da parte del direttore di banca, cosa che accade frequentemente. E seconda cosa, se la malattia è intervenuta un anno fa con relativa perdita del lavoro, se il provvedimento comunque è valido. Senta Almiro, ma lei ha dovuto combattere un po' col suo direttore? È andato a chiedere, le ha detto no, guarda, non è possibile. Sto aspettando tuttora delle risposte. Almiro, allora, chi mi vuole rispondere di entrambi è Vito, così siccome Vito è un po' impegnato in redazione, magari poi se vuoi ci puoi anche lasciare qualche minuto prima, ma vuoi già dare qualche indicazione al nostro ascoltatore? Lui dice problema di salute, gli ha fatto interrompere il rapporto di lavoro un anno fa, intanto ancora in tempo a chiedere il sostegno attraverso la moratoria ABI? Per quanto riguarda la moratoria ABI, sì, per quanto riguarda il fondo, no. No. Quindi praticamente lui potrebbe adesso beneficiare di questa proroga, sì, se il fatto che gli ha fatto perdere il posto di lavoro è verificato entro il 28 febbraio 2013, quindi in realtà ha ancora una finestra aperta. Certo. Sì. Non deve quello esserci che diceva però solo lui, questa condizione. No, dipende, ecco, naturalmente... per questo dicevo, sicuramente sentire l'agenzia, sentire le associazioni, perché insieme con i documenti davanti si riesce magari a avere un quadro più preciso, anche se è il caso appunto di sollecitare, perché l'ascoltatore diceva non sto aspettando delle risposte, ecco, quindi magari capire se queste risposte non arrivano perché stanno cercando di approfondire la situazione di questo cliente, che magari sono situazioni borderline per quanto riguarda i requisiti, oppure invece se c'è un'inerzia per qualsiasi ragione, esatto, quindi no, magari il tema è questo, provare a se sollecitare. Lui avesse tutte le caratteristiche tali per cui ha il diritto di accedere alla moratoria, il direttore di banca può comunque dire no, non te lo... No, se la banca ha aderito alla... Ecco, esatto. Sì, la banca, allora l'elenco delle banche è presente sul sito dell'ABI e a volte anche con dei richiami ai siti delle associazioni dei consumatori, ma sicuramente ecco, sul allora sito forse di la prima ABI. Verifica che Almiro deve fare certo, è questa, perché se la banca sua banca non ha, aderito... ha aderito naturalmente alla moratoria, perché hanno aderito in un numero elevatissimo, ma per sua sfortuna dovesse essere una banca che non ha aderito, è capitato, io ho avuto una situazione dove effettivamente una banca, ed era una banca molto grande, molto importante, che però non aveva aderito, quindi il rifiuto era dovuto a quello, però in quel caso il cliente poteva, se non ha aderito alla moratoria ABI associazioni, potrebbe però rientrare nel discorso fondo di solidarietà, quindi se non è l'una magari è l'altra, riuscire ad aiutare, ecco, poi magari appunto sentendosi anche direttamente con l'agenzia, quindi Almiro, se magari ci vuole scrivere, daremo un'occhiata un po' più attenta alla sua situazione, se ce la può dettagliare un po' meglio, così cerchiamo di capire il motivo per cui temporeggia questo direttore di banca. Eccoci ritrovati. Allora, la sospensione del mutuo per le famiglie in difficoltà. Abbiamo via via perso tutti gli ospiti, naturalmente, che per impegni vari hanno chiesto appunto di lasciarci un attimo prima. Continuiamo e terminiamo con l'avvocato Maria Stella Anastasi. Tanto visto che sta allo sportello, non proprio esattamente lì dietro, della Lega Consumatori, tutto il giorno, conosce benissimo ogni singola situazione, ci può spiegare bene come ci si deve comportare qualora anche di fronte a questi provvedimenti di sistema un direttore di banca temporeggia, e d'altronde anche loro con le raccolte che fanno, che sono a zero carbonelle in questo periodo. Avvocato Anastasi, pure la sospensione del mutuo è comunque un flusso in meno di cassa periodico. Liliana da Belluno, buongiorno. Sì, buongiorno. Io chiamo per raccontare un po' la mia esperienza, ne ho molta a riguardo alla sospensione dei mutui, purtroppo. Spiego un attimo la mia situazione. Mio marito è in cassa integrazione in deroga dal 2009, vista l'età purtroppo non si trova lavoro. Io ho perso il mio lavoro a tempo determinato a settembre del 2011 e ci siamo trovati con la rata del mutuo sulle spalle da pagare, però non avere entrate. La cassa integrazione ammonta a circa 800 euro al mese, certo, e una rata di 600 euro al mese di mutuo. E in un primo momento siamo riusciti a sospendere il mutuo attraverso una convenzione che c'era fra le prefetture del Veneto e non era ancora entrato in vigore il discorso dell'ABI. Quindi quello ci è stato concesso per 6 mesi. Poi c'era il discorso della sospensione con il piano famiglie, con l'ABI, e quindi ci hanno concesso, la banca ci ha concesso altri 6 mesi di sospensione. Siamo arrivati praticamente a maggio del 2010. Continuando queste problematiche, ho chiesto nuovamente alla banca se era possibile risospendere il mutuo per altri 6 mesi, visto che il piano famiglia prevedeva 12 mesi di sospensione. E invece le hanno accumulati i 6 mesi precedenti? Accumulati i 6 mesi precedenti. E quindi non sono riuscita ad ottenere niente. Purtroppo la situazione è andata sempre più complicandosi, perché questa cassa integrazione è sempre continuata ed io non riesco a trovare lavoro. Di conseguenza siamo arrivati proprio allo stremo a fine del 2012 e sono andata dalla banca e ho chiesto nuovamente la possibilità di sospendere, visto che non c'era più la clausola dei 12 mesi che legava un attimo la banca nel nuovo piano famiglia. Ho chiesto di poter aderire per altri 6 mesi a questa sospensione. Con un grande tour de force mi è stata concessa, però ho dovuto patire le pene dell'inferno. Allora io dico, praticamente 12 mesi nell'arco di 4 anni sono praticamente niente. Beh certo, Liliana, la sua è sicuramente una situazione estrema, non poco frequente. No, perché tra l'altro la signora diceva il fondo, il piano famiglie ABI associazioni in realtà è in vigore dal 2010, cioè l'accordo è fine 2009, quindi questo è il vero limite, nel senso che sappiamo che tutti quelli che ne hanno usufruito hanno potuto farlo solamente per un 12 anno, mesi, certo. E spesso alla fine dei 12 mesi non sono in grado di riprendere i pagamenti. D'altronde si è cercato di aiutare il numero più ampio di famiglie possibile, non solo le stesse. In realtà, ecco, però la signora probabilmente gli ulteriori 6 mesi che adesso ha potuto integrare, forse sono stati fatti e integrati attraverso proprio il fondo di solidarietà, che porta a 18 mesi complessivi. Quindi diciamo che chi ne avesse usufruito per 12 mesi avrebbe ancora 6 mesi rientrando attraverso appunto il fondo cosiddetto Gasparrini, certo. Ecco, che così ci intendiamo. Il tema è che però io mi rendo anche conto che Liliana trova ingiusto e riduttivo un provvedimento concepito in questa maniera, però che è anche vero. Prima per le partite IVA, cioè è chiaro che qualcuno è rimasto fuori ed è su quello che stiamo cercando di continuare a lavorare. Con una coperta che è corta, necessariamente allora, corta. Allora, la moratoria vale solo per i mutui prima casa o vale anche se c'è un finanziamento garantito dalla casa? Ci chiede un ascoltatore. Avvocata Anastasi. Allora, no, ho capito, l'ascoltatore probabilmente ha contratto un prestito personale dando in garanzia, diciamo, magari la prima casa, però viene visto come prestito personale, quindi no, i fondi valgono solamente per il mutuo proprio sulla casa, cioè cosiddetto mutuo fondiario, non per i prestiti personali. Sono un artigiano che lavora un mese su tre e senza nessun sostegno, mobilità, cassa integrazione, quindi lui fa riferimento ovviamente agli ammortizzatori sociali, come è possibile sospendere il mutuo? Visto che abbiamo detto che il limite grande, enorme, più importante sia della moratoria che del fondo di solidarietà è il fatto che non riescano a sostenere anche le partite IVA e i lavoratori autonomi, voi come li sostenete, avvocata Anastasi? Cosa dite loro di fare allora, se tanto il mutuo non riescono a rimborsare? Allora, non è che gli si può dire vendi la casa, vai in affitto. Ma no, assolutamente, certo. Allora, premesso che in questi casi abbiamo sempre cercato caso per caso di andare a vedere con la singola banca se era possibile, per esempio, rinegoziare il mutuo e quindi magari abbassando, spalmando, allungando i tempi del mutuo e quindi abbassando le rate, fosse possibile creare una rata almeno sostenibile per quella famiglia. Così come si è continuato. Quindi la rinegoziazione. Di fatto, senza nel però loro una caso, solamente quella. Proprio perché le stesse banche sono consapevoli che se non c'è l'entrata, loro possono soltanto andare ad agire sul bene immobile, quindi con un'esecuzione immobiliare, con quella che alla fine diventa una vendita all'asta della casa. Che non è spesso una procedura conveniente per la non banca. Non è conveniente sicuramente per la famiglia, perché perde la casa, quindi questo va ad innescare quello che noi temiamo essere un rischio anche sociale, ma non lo è di sicuro neppure per l'istituto bancario, perché poi le aste in questo momento vedono moltissimi immobili che quindi tendono a perdere di valore, ci sono pochissimi acquirenti e quindi anche questo sta diventando un cane che si morde la coda. Noi abbiamo chiesto agli istituti bancari, soprattutto a quelli che hanno più mutui in carico, di valutare altre iniziative e insistiamo ogni giorno con l'industria bancaria per trovare insieme una soluzione che possa andare a integrare il maggior numero di famiglie. Anche perché, parliamoci chiaro, se una famiglia ha ottenuto un mutuo e magari lo ha ottenuto tra il 2004, 2005, 2006, quando le banche erogavano all'80% il 100% del valore della casa, qua si tratta anche di una assunzione reciproca di responsabilità, di una situazione che è maturata insieme. Non è che la famiglia è andata lì con la pistola e ha chiesto il mutuo che venisse erogato per forza. La banca si è assunta dei rischi e oggi io mi rendo anche conto che la banca non ha nessun dovere nei confronti nostri di rinegoziare eccetera, però insomma è solamente una condizione di equilibrio che responsabilmente deve essere ritrovata. Sentirei Marco da Salerno prima della chiusura, rapidissimo. Marco, buongiorno, ci racconti? Sì, salve, buongiorno e complimenti e grazie per quello che fate. Quindi io ho usufruito della sospensione praticamente, la moratoria che è scaduta adesso a dicembre. Praticamente quindi la banca ha chiamato e deve iniziare a pagare, però ecco, adesso ha preso che praticamente c'è una proroga della moratoria, però vorrei sapere qualcosa in più sul fondo di solidarietà, nel senso che quando dura, se posso accedere, ho già usufruito di 12 mesi della moratoria. Qual è la scelta più conveniente? Allora Marco, rapidamente perché stiamo chiudendo, avvocata Anastasi. Dunque, intanto la moratoria dura 12 mesi, il fondo di solidarietà 18, per cui teoricamente si può Sì, approfittare... il nostro ascoltatore avrebbe ancora 6 mesi, quindi sicuramente subito chiedere sia in agenzia che presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori, in modo che non appena è pronto tutto il regolamento eccetera, dovremmo esserci proprio, lui possa chiedere di poter usufruire di questi ulteriori 6 mesi, sperando che intanto in questi 2 mesi sia riuscito ad essere regolare con i pagamenti che hanno ripreso. Avvocato Anastasi, grazie per essere stata con noi. Grazie. La riaspettiamo presto, naturalmente. Salva Danaio torna domani. A tutti buona giornata.